Raffaello, Ademo, Elisabetta. Presente. Bozzini, Emanuela. Presente. Calderon, Clelia e Leo. Presente. De Angelis, Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Più qualità, più rapporto stretto tra istruzione e mondo del lavoro. Voi sapete che io perciò sostengo con convinzione che nel portare avanti l'impegno comune e categorico per la riduzione del debito dello Stato, per la riduzione del debito pubblico, bisogna riconoscere la priorità della ricerca e dell'istruzione nella ripartizione delle risorse pubbliche disponibili. Ci piace partire con la voce di Napolitano, con l'invito del Capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno scolastico a considerare prioritario per un paese ricerca ed istruzione anche in tempi di vacche magre. Grazie Presidente. E come potevamo esimerci dal parlare, anche qui in obbligo di frequenza, di ADRO, la scuola dei simboli leghisti e della mensa negata a chi non paga? Una scuola questa nel Bresciano che abbiamo scoperto avere una storia che comincia da molto lontano. Ce la racconta Anna Migliorati. La sveglia birichina, l'anno di mattina, d'accordo fuso al letto, mi butta giù dal letto, mi metto le ciabatte, poi bevo il caffè e latte, mi lavo mani e faccia, poi mangio la focaccia. Mi dice la mia mamma, corri bambina a scuola. Poi... 1975, 35 anni fa, i bambini cantavano così nelle aule, era tutta un'altra storia. L'editrice La Scuola pubblicava un testo che per molte maestre che hanno fatto in quegli anni l'esame di abilitazione diventa un passaggio obbligato. Il titolo ADRO a tempo pieno. Un libro oggi quasi introvabile che racconta la storia e i metodi di una scuola di provincia, dove allora si sperimentava con indiscusso successo una novità per la scuola italiana degli anni 70, il tempo pieno. Dopo 35 anni, mentre sul tempo pieno o lungo si dibatte tra tagli e riforme, è ancora la scuola di ADRO ad essere un simbolo. E sì, perché la piccola scuola di provincia di allora è la stessa mandata in pensione oggi per il nuovissimo e modernissimo complesso Gianfranco Miglio, tappezzato dal sole delle Alpi. Un destino insomma da queste parti. E allora facciamo un passo indietro. Sono gli anni 60, in un territorio, la Franciacorta, non certo ricco né di soldi né di cultura, la passione del vino porta all'improvviso benessere e denaro. Cambia tutto e cambia anche la scuola. Tra le maestre di allora c'è Romana Gandossi, che oggi ricorda. La maestra unica che chiudeva la porta e faceva quello che voleva era finita. Adesso si lavorava in gruppo e per di più le riunioni le facevamo di sera per poter avere anche i genitori. Era un lavoro appassionante perché il maestro creava, non dipendeva più dal libro di testo, si formava lui, costruiva lui un libro di testo a partire dalla vita dei bambini, questo tipo di lavoro che poi si era sparso in tutta Italia, musica espressiva, attività espressive, azione iconica, fotografia e immagini, buttato tutto quello che apparteneva alla scuola tradizionale, compreso la correzione dell'ortografia, e i genitori erano inorriditi, si stava tutto il giorno con i bambini e si mangiava con loro ci davano del tu, ci chiamavano per nome. Guardi, era non c'era più bisogno di sgridarli, perché i bambini lavoravano felici. Dietro la rivoluzione di ADRO c'è anche un vulcanico sacerdote, Don Angelo Chiappa. Per la curia bresciana si occupa delle scuole materne. Ad ADRO, col tempo pieno, nasce anche il problema: dove far mangiare i bambini? Ci pensa Don Angelo e nasce una cooperativa di genitori che ha gestito la famosa mensa di ADRO fino alla primavera scorsa, quando, in contrasto con il comune, ai bambini cui i genitori non pagavano i pasti è stato dato solo pane e acqua. Dopo 23 anni l'esperienza è chiusa, la cooperativa è sciolta ed è ancora Don Angelo ad essere tornato ad ADRO. Prima ha convinto il famoso benefattore a pagare il conto. Poi, mentre 90.000 euro rimasti dalla vecchia gestione giacciono su un conto corrente congelato, conteso tra comune e vecchi volontari, lui sta raccogliendo soldi per chi anche quest'anno non potrà pagare. Non i benestanti che non vogliono aprire il portafoglio, ci tiene a precisare Don Angelo, ma chi ha davvero bisogno. E rivendica, la mensa non è un particolare nei metodi didattici. La mensa, il progetto pedagogico e didattico di una scuola a tempo pieno, aveva un suo significato preciso di integrazione. del metodo Agazzi delle scuole materne, che il più grande aiutava il più piccolo, si chieda ai tanti che hanno fatto della questione di Adro una bandiera, che almeno ai bambini da quest'anno bisogna ricominciare a dare la tranquillità, che tutti quelli che entrano a scuola hanno il diritto alla didattica, hanno il diritto alla palestra e hanno il diritto alla mensa. Ed eccoci ad oggi. La vecchia scuola di Adro a tempo pieno è un edificio ormai chiuso, con tapparelle abbassate e giardino incolto. È destinato ad ospitare 125 appartamenti. I bambini hanno una nuova scuola con tutte le più moderne comodità, banchi ergonomici e lavagne elettroniche, ma tappezzata dai simboli del partito di maggioranza in paese, il Sole delle Alpi della Lega. Simboli da rimuovere, dice il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, perché la politica non può entrare nelle aule. Una cosa è certa, davanti alla scuola le mamme non ne possono più di sentir parlare di politica. A me basta che i bambini vadano a scuola e stiano tranquilli. Se i simboli devono restare lì, che qualcuno dice che devono stare lì, restano lì, basta. Siamo stufi. Mi sembra 8 anni di mettermi a spiegare, cioè, la Lega. È stato tutto esasperato e adesso ne paghiamo le conseguenze. La decisione tocca al sindaco. Togliere il Sole delle Alpi costerebbe 30.000 euro. E intanto la prossima settimana riaprirà anche la mensa. Aperta a tutti? Questa è una storia ancora da scrivere. Si parla tantissimo da noi di scuole ghetto, della gestione non sempre facilissima degli studenti stranieri. Questa settimana vi proponiamo un'esperienza dall'estero, il caso Canada, un paese abituato a fare conti con questa realtà e che ormai non rappresenta più un problema. Lo facciamo attraverso il racconto di una voce di Radio 24 che forse ricorderete, Irene Zerbini, che ha realizzato su questo tema un documentario davvero molto interessante insieme a Carlo Basilone. Si intitola Scuole senza confini. Lezione di inglese in una scuola di Toronto. I bambini sono al livello 1 e per la maggior parte sono arrivati quest'anno dal Bangladesh, dall'India o dal Sud America. La loro insegnante di inglese li assiste per 40 minuti al giorno. Per il resto sono completamente immersi nella lingua dei coetanei, con i quali seguono le regolari lezioni. Anche la professoressa ha imparato l'inglese come seconda lingua. Indossa il copricapo musulmano e viene dal Bangladesh. When we want to teach them how to learn the language, it's all about immersion, right? La lingua si impara con l'immersione, ci spiega, e noi non insegniamo la grammatica separatamente perché farà parte del processo d'apprendimento. It's part of the language acquisition. L'insegnamento dell'inglese come seconda lingua e l'integrazione della numerosissima popolazione immigrata è l'oggetto di un video, Scuole senza confini, presentato il 18 settembre al Festival Multiculturale Uguali Diversi nel comune di Novellara. È una cittadina della provincia di Reggio Emilia che guarda con interesse a ogni possibilità di creare una scuola d'eccellenza e dunque ha voluto esplorare la via canadese, qui descritta dal console generale di Toronto, Gianni Bardini. Nelle scuole ci sono insegnanti dedicati, ci sono delle strutture, ci sono dei tempi che proprio vengono riservati ai ragazzi perché questi possano superare il loro deficit, senza comunque segregarli, per cui non esistono scuole differenziate. I ragazzi vengono inseriti nelle scuole normali, ma hanno tutta una serie di strutture di sostegno e di supporto. Nel capoluogo dell'Ontario, la città più multietnica del pianeta, dei 2.700.000 abitanti, il 52,2% è nato all'estero. Good morning, Crescent Town School. The teachers will use different strategies. Tammy Ross, la preside di Crescent Town Public School, alla quale abbiamo chiesto se una popolazione scolastica in cui la maggioranza degli allievi parla un'altra lingua a casa non ritardi la qualità dell'apprendimento, ci ha spiegato che al contrario la arricchisce. Actually, I think it enriches the quality of the learning and the teaching that's going on in the classroom. L'obiettivo che si pone il sistema scolastico a Toronto non è solo l'apprendimento dell'inglese che si sa avverrà, quanto il mantenimento della prima lingua dello studente. Il problema della lingua esiste ed è quello di chi di lingua ne parla una sola. Il documentario Scuole senza confini potete vederlo su radio24.it andando sulla pagina di Obbligo di Frequenza. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12.45.